Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi diciamo che anche su questo genere di cose dovreste avere più senso d'appartenenza verso il vostro paese. Concluda. E riconoscere quelli che sono i drammi propri. Grazie, signor Presidente. Grazie, deputata Grimoldi, per l'intervento. Bene, allora... Beh, non ditemi che non è fortissima questa Laura Boldrini, presidente della Camera, che siccome ha chiesto da tanto tempo, qui era durante appunto una seduta della Camera, da tanto tempo ha chiesto di poter essere chiamata giustamente al femminile la presidente e di possibilmente anche le istituzioni, insomma, si diano una smossa su questo aspetto di equità, di pari dignità tra donne e uomini, quindi di declinare al femminile quando si tratta di donne, al maschile quando si tratta di uomini. Siccome invece fra i vari anche il deputato leghista Grimoldi, come avete sentito, si ostina apposta per irritarla che parla signor Presidente, avete sentito come ha sottolineato, lei con una prontezza incredibile ha detto va bene deputata Grimoldi, giustamente se non si deve arrabbiare una donna a essere chiamata al maschile, perché dovrebbe arrabbiarsi un uomo a essere chiamato al femminile? Questa è una polemica a volte spesso con alcuni ascoltatori e ascoltatrici, però ho dato già lunghe risposte anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che rimane sempre un luogo per aderire senza indugio da parte vostra e anche naturalmente per esporre le vostre riflessioni, così come anche gli sms al 349-238-6666. Oggi vi chiederei la vostra opinione su, nel senso, è una questione molto complessa, ma parleremo senz'altro anche di immigrazione, oltre che di politica, perché sapete che in questi momenti dovrebbe essere riunita il Partito Democratico per discutere sull'Italicum e sembra che c'è Pastorino, tra pochissimo tempo è già sull'aereo Pastorino, può intervenire immediatamente, deve intervenire immediatamente, quindi prima dei titoli, siccome sapete uno dei fatti più importanti di poco fa è che è arrivata da Genova questa notizia, è indagata la candidata PD alla regione Raffaella Paita per mancata allerta quando era assessore. Ho visto anche ulteriori motivi per cui è indagata, anche per omicidio e disastro colposi. E allora saluto Pastorino che è sostenuto non dal PD ma da SEL, dai civatiani, diciamo dai ribelli civatiani. Buonasera Pastorino. Buonasera a lei, buonasera. Buonasera. Sono venuto da un esperimento nuovo che si chiama Rete a Sinistra, insomma una cosa strana che abbiamo fatto. Sì, Luca Pastorino, onorevole del gruppo misto, ex PD, sindaco di Bogliasco, tra l'altro in provincia di Genova, candidato presidente in Liguria appunto per Rete a Sinistra, come diceva SEL, dissidenti del PD. Ha sentito delle accuse molto gravi per il momento, si parla però sì. Per il momento solo indagata Raffaella. No, certo, Paita. Ma io credo che le indagini aperte su Raffaella Paita comunque non devono entrare nella campagna elettorale, insomma, nel rispetto dei fatti relativi all'inchiesta, delle accuse gravi e poi anche perché comunque quegli episodi dell'alluvione hanno comunque lasciato il segno sempre in tutti i genovesi, per cui insomma io credo, spero, io non ne voglio parlare e spero che lei possa chiarire la sua posizione quanto prima. Quindi Pastorino giustamente dice vediamo come proseguono le indagini, non dovrebbe compromettere la campagna elettorale, perché questo potrebbe essere un durissimo colpo alla candidata del PD. Visto che le regionali sono fine maggio, si è deciso? Sono ancora? Il 31 di maggio, sì. Finalmente si è deciso che saranno il 31 di maggio, però ripeto, io credo che lei in questi giorni abbia modo di giustificare la sua azione come assessore competente. Ripeto, il caso delle elezioni piacerebbe che insomma venisse citato o meno possibile in questa campagna elettorale, perché in effetti lo dico da genovese che è ferito per quei giorni lì da sindaco di paese colpito dall'alluvione, quindi davvero mi auguro che lei possa chiarirle bene a tutti in modo che poi allora Pastorino, prima che lei faccia un passo avanti sull'aereo, secondo lei il Paita dovrebbe fare un passo indietro in questo momento? Ma non lo so, no. Adesso lei, secondo me, ripeto, deve spiegare la sua posizione. Poi da lì, da quello che dirà, da quello che farà, allora sarà magari lei stessa a volerlo fare o no. Però è troppo presto. È chiaro che può essere per lei un duro colpo, però nel rispetto di tutti e soprattutto di quella situazione, direi che aspettiamo un po'. Va bene, Luca Pastorino, lei invece, onorevole, non può aspettare per l'aereo, quindi buon viaggio e grazie della disponibilità. Grazie, grazie a lei, grazie a tutti, buonasera. Grazie, buon volo. E allora, prima dei titoli, visto che abbiamo fatto questa eccezione stasera, con effetto notte, visto che Pastorino doveva prendere un aereo, d'altronde bisogna essere un po' flessibili, c'è anche Andrea Ferro, il nostro Andrea Ferro da Genova, che invece sulla cronaca c'è giorni. Andrea. Sì, buonasera Roberta. Come dicevi già da studio, secondo l'accusa sostenuta dai PM Gabriella Dotto e Patrizia Ciccarese, la Paolita sarebbe responsabile, insieme a Gabriella Minervini, direttore della Protezione Civile regionale, di non aver diramato l'allerta in vista delle precipitazioni annunciate dai bollettini meteo, precipitazioni che la sera del 9 ottobre si erano poi rivelate violentissime e disastrose. Ricorderete, in poche ore la pioggia aveva gonfiato i torrenti e prima di mezzanotte nei pressi di Brignole il Bisagno era esondato, provocando una vittima, un passante ghermito dall'onda di piena e danni per centinaia di milioni. Andrea, ricordiamo però perché è indagata in questo momento, perché era assessora alla Protezione Civile al tempo. Lo è tuttora. Quindi, nel corso dell'inchiesta, appunto, la procura ha ricostruito il funzionamento della macchina della Protezione Civile durante la giornata, appunto, del 9 ottobre, accertando che gli uffici erano stati chiusi alle 18 per poi riaprire solo quando la città era ormai sott'acqua. A novembre Raffaella Paita era stata interrogata a Palazzo di Giustizia per quasi 4 ore, adesso, appunto, l'informazione di garanzia. Nel frattempo è avvenuta la designazione a candidata del centro-sinistra, avvenuta al termine delle primarie che il gennaio l'avevano vista prevalere su Sergio Cofferati, un verdetto fortemente contestato, anche questo penso lo ricorderete, dall'ex segretario della CGIL che aveva denunciato numerose irregolarità ai seggi, ma alla fine l'esito delle urne è stato convalidato. Chiaramente la notizia di questa sera, l'abbiamo sentito anche dalle parole del sindaco di Bogliasco e candidato della lista di sinistra, irrompe comunque sulle regionali. E come vi dicevo in apertura, il PD si presenta lacerato dalle divisioni. Luca Pastorino, senatore della minoranza di Pippo Civatti, ha lasciato infatti il partito e corre, come sentivamo, alla testa della lista di sinistra. Per il centrodestra il candidato è Giovanni Totti, braccio destro di Berlusconi. I sondaggi, Roberta, sono incerti, in particolare gli ultimi della settimana scorsa, e presumo lo saranno ancora di più dopo la notizia di questa sera, cioè dell'informazione di garanzia inviata a Raffaella Paita. Già, grazie Andrea Ferro da Genova. Ciao Andrea. E adesso riprendiamo allora la linea, diciamo, quella normale, quotidiana di Effetto Notte. Riprendiamo dai titoli, partiamo con l'Italicum. Renzi riunisce il PD sulla legge elettorale, resa dei conti nel partito, le opposizioni avvertono, mettere la fiducia sarebbe un golpe. Immigrazione, proseguono gli sbarchi e le polemiche, in pochi giorni messe in salvo 10.000 persone, l'ONU dice sulle spalle dell'Italia un enorme fardello. Liguria, per l'alluvione di Genova indagata la candidata PD alla regione Raffaella Paita per mancata allerta quando era assessora, anche per omicidio e disastro colposi. Imprevisto alla Banca Centrale Europea, grida i coriandoli contro Draghi, che interrompe la conferenza stampa, poi prosegue avanti, dice, col quantitative easing fino in fondo. Genocidio degli armeni, nuove minacce dal presidente turco Erdogan, potrei espellerli tutti, dice. Strage al Tribunale di Milano, oggi funerali di Stato in Duomo, il vescovo Scola chiede una giusta pena per Giardiello e più responsabilità. Doppia mossa contro Google, l'antitrust lo accusa di posizione dominante, ora nel mirino anche Android. Calcio, si giocano gli altri 2 quarti di finale di Champions League e per il campionato di Serie A il Genoa ha battuto il Parma 2-0 nel recupero della 25esima giornata. Prima di andare avanti vi dico che l'argomento di questa sera potrebbe essere, appunto, l'Italicum, il PD, questa tensione che c'è nella riunione e la resa dei conti, ci dovrebbe essere il pericolo di scissione, e poi anche l'immigrazione con l'ONU che ha detto una cosa importante, benché per il momento siano parole. L'Italia sta portando un fardello enorme sul problema immigrazione, dice l'ONU. Cosa ne pensate, visto che la polemica è accesissima? Ma adesso andiamo sulla politica, vi dicevo, con momenti febbrili per l'Italicum, la riforma della legge elettorale, per l'unità del PD, che dovrebbe essere impegnato da circa un'ora in una riunione per discutere, appunto, dell'Italicum, vero Vincenzo Miglietta da Roma? Ciao Vincenzo. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. È così, l'assemblea dei deputati del Partito Democratico è iniziata alle 20, quindi poco più di un'ora di riunione. In quest'ora cosa è successo? Intervento del Presidente del Consiglio Renzi, che ha messo dei punti fermi alla discussione sull'Italicum. Sono qui per chiedere che l'assemblea del gruppo confermi la linea che la direzione ha dato. Questo vuol dire che quindi, secondo il Premier, la legge elettorale all'esame del Parlamento non non va modificata, e poi un passaggio importantissimo ai fini del futuro dello stesso governo. Questo governo è legato a questa legge elettorale nel bene e nel male, ha ricordato Renzi, come a dire se qualora l'Italicum non passasse, certamente questo esecutivo non avrebbe futuro. Già in giornata erano uscite delle indiscrezioni secondo le quali Renzi, qualora l'Italicum fosse bocciato dalla Camera tra fine aprile e inizio maggio, sarebbe pronto a salire al Quirinale. Quindi questa è un po' l'atmosfera, le precondizioni che Renzi ha dato ai deputati del suo partito per il voto che si attende intorno alle 23. Ricordiamo che sono circa 100 su 300 i dissidenti, e quindi vediamo se questi numeri saranno confermati, perché qualora i numeri dei no fossero superiori, certo la scissione sarebbe, Roberta, veramente dietro l'angolo. Beh, saremo a vedere, minacciata varie volte. Intanto grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo. Sull'immigrazione invece, vi dicevo, in pochi giorni 10.000 persone sono state messe in salvo, solo ieri 1.500 migranti, ci sono continui nuovi arrivi, lo rendono noto le capitanerie di porto. Intanto l'ONU, vi dicevo, dà questo riconoscimento al duro lavoro dell'Italia, dicendo che l'Italia porta su di sé, sulle sue spalle, un pesante fardello per quanto riguarda appunto il soccorso in mare, poi l'accoglienza e le risorse messe anche a disposizione, quindi una grande emergenza che sappiamo da tempo insomma gestisce soprattutto l'Italia. Cosa ne pensate di questo aspetto? Che idee avete? Che soluzioni proponete? Anche se le soluzioni manco la politica finora le ha trovate, le sa trovare. 349-238-6666 per i vostri messaggi, e poi la pagina Facebook di Effetto Notte. Parliamo anche della conferenza della Banca Centrale Europea a Francoforte, successiva alla decisione sui tassi rimasti invariati. Una conferenza interrotta da un imprevisto e poi ripresa. Il blitz spaventa Mario Draghi, anche se solo per pochi istanti, e sconvolge la settica liturgia delle consuete conferenze stampa BCE. La giovane attivista travestita da giornalista salta con un prodigioso colpo di reni sul tavolo del presidente, e mentre lui si schermisce, lei gli rovescia addosso un'intera busta di coriandoli, gridando basta con la dittatura della BCE. Il coup de théâtre monopolizza la rutinaria conferenza stampa a Francoforte, nella quale Draghi, una volta rientrato in sala, torna padrone della scena, elargendo ottimismo. La ripresa nell'eurozona sta accelerando, i rischi sono diventati più bilanciati. Poi aggiunge, le misure adottate dalla BCE dovrebbero fornire sostegno a un ulteriore miglioramento del credito a famiglie e imprese, stanno arrivando all'economia reale. Draghi difende con forza il quantitative easing, che considera efficace. Gli acquisti di titoli pubblici da parte della BCE proseguiranno fino a settembre 2016, se necessario anche oltre, garantisce. Si dice anzi sorpreso dalle ipotesi circolate su una possibile uscita anticipata dal programma, smentendo che esista già una scarsità di bond acquistabili. Infine, sulla Grecia, Draghi è esplicito. Non voglio nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi di un'insolvenza sui pagamenti da parte di Atene. Continueremo a fornire liquidità alle banche elleniche solventi, anche perché, ha chiosato, la liquidità alla Grecia non ha scadenza, ma tutto dipende dalle decisioni del governo Tsipras. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la strage al Tribunale di Milano, oggi il lutto cittadino nel capoluogo lombardo, che si è fermato oggi per i funerali delle vittime degli spari a Palazzo di Giustizia. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Duomo a Milano per i funerali di Stato di due delle vittime della strage di giovedì scorso in tribunale. Alle 16, ora di inizio della cerimonia, un minuto di silenzio è stato rispettato nel giorno di lutto cittadino voluto dal sindaco Pisapia. Adagiate sulle bare del giudice Fernando Ciampi e dell'avvocato Lorenzo Clari Sapiani, le toghe, quelle che indossavano, nelle aule di giustizia. A officiare la cerimonia solenne l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, che ha avuto parole anche per il killer, per il quale ha chiesto la giusta pena. L'arcivescovo non può non volgere ora un pensiero all'assassino, perché Claudio Giardiello, attraverso la giusta pena espiatoria, prenda consapevolezza del terribile male che ha compiuto, fino a chiederne perdono a Dio e agli uomini che ha così brutalmente colpito. In Duomo, tra gli altri, i presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, le autorità milanesi, molti politici, oltre che magistrati e avvocati, ma tanti anche i cittadini che hanno voluto essere presenti. Mi sembrava appunto un giusto senso civico partecipare. Ma siamo qui per essere più vicini a loro. Mi fa una tristezza, cosa che mi prende proprio allo stomaco. Cosa dobbiamo aver paura ormai? Abbiamo paura di tutto. Bisogna andare avanti uniti contro violenze e paura, ha dichiarato il sindaco Pisapia al termine delle esequie, alle quali ha partecipato indossando la fascia tricolore. E non si possono fare polemiche in questo momento, ma bisogna trovare la capacità di fare un passo in avanti, uno scatto d'orgoglio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo all'estero con i nuovi attacchi del governo turco al Vaticano. Dopo le frasi sul genocidio armeno, il presidente turco Erdogan ha precisato di essere disposto a cacciare dalla Turchia 100.000 armeni. E poi, per quanto riguarda invece di nuovo le notizie italiane, in mattinata è arrivato il sì definitivo al decreto antiterrorismo, che è diventato legge, ne parleremo più tardi con effetto notte. Per il fisco, la direttrice dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi al forum dell'agenzia di stampa ANSA ha detto che con il via oggi al 7.30 compilato, quella di oggi è una giornata storica per il paese. E poi invece anche Google fa discutere la doppia mossa europea contro Google, per l'appunto. 5 anni di indagini e molte indiscrezioni già filtrate nelle scorse settimane sui quotidiani economici internazionali. Alla fine la Commissione ha deciso 2 indagini formali nei confronti di Google. We have adopted a statement of objection to Google. È la commissaria Vestager ad annunciarle, la prima per abuso di posizione dominante nella ricerca online. Sotto la lente di Bruxelles la comparsa e il posizionamento di certi risultati di ricerca, in particolare relativi allo shopping. La seconda sulla condotta di Google sul proprio sistema operativo Android. A questo punto Google ha 10 settimane per rispondere e la commissaria si attende spiegazioni convincenti perché, ha detto, l'interesse da tutelare è quello del consumatore, lo scopo non è colpire la società, che sia europea o americana, non ha alcuna importanza. A Mountain View si dicono pronti, con una relazione fatta di esempi concreti, corredata da grafici, su come ci sia grande competizione e soprattutto di come l'utente possa sempre scegliere liberamente quali servizi usare. Tutte le strade restano aperte, ha sottolineato la Vestager, anche quella che porta la multa, che potrebbe superare i 6 miliardi di dollari. Secondo alcune stime, ribadite anche dalla commissaria, il 35% dei ricavi Google li raccoglie in Europa e la sua quota nella ricerca online supera il 90% in molti paesi europei, a fronte del 65% negli Stati Uniti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Noi diciamo che anche su questo genere di cose dovreste avere più senso d'appartenenza verso il vostro paese. Concluda. E riconoscere quelli che sono i drammi propri. Grazie, signor Presidente. Grazie, deputata Grimoldi, per l'intervento. Bene, allora... Fortissima questa Boldrini che dà del femminile giustamente a un deputato leghista che le dà del maschile, insomma. Invece adesso noi riprendiamo lo scorrere delle notizie con il calcio. Dario Ricci, Champions League, non ci sono degli italiani ma comunque partite importanti, non è vero Dario? Importanti, se ieri sera avevamo avuto soprattutto emozioni, questa sera abbiamo emozioni e anche gol, Roberta, perché siamo al 34esimo di gioco a Parigi e il Barcellona in vantaggio per 1-0 sul Paris Saint-Germain. Decide finora la rete di Neymar al 18esimo, splendido l'assist filtrante di Messi per l'asso brasiliano. Messi che pochi minuti prima al 16esimo aveva colpito anche un palo con uno splendido sinistro a giro dal limite dell'area. Paris Saint-Germain che ha perso tra l'altro per infortunio l'ex milanista Thiago Silva, sostituito dall'altro brasiliano David Luiz. Bella e incandescente anche la sfida di Porto, dove il Porto è in vantaggio per 2-1 sul Bayern Monaco. Porto subito avanti con una doppietta di Quaresma, sì, proprio l'ex interista, al terzo su calcio di rigore e poi al decimo. Bayern Monaco che ha reagito però al 28esimo con la rete dello spagnolo Thiago Alcantara. Meno male che c'è Alcantara, grazie Dario Ricci, non lo so se meno male oppure no. Adesso però vi riassumo le notizie più importanti della giornata e poi cominciamo ad approfondirne alcune. Italicum, Renzi riunisce il PD per chiudere la discussione senza modifiche sulla riforma della legge elettorale, dice il governo è legato all'Italicum nel bene e nel male. E poi blitz la Banca Centrale Europea contro Draghi, un attivista, una manifestante con coriandoli e slogan saltata sulla scrivania lo interrompe, lui però ha replicato con aplomb e ha continuato la sua conferenza stampa. Il presidente turco Erdogan minaccia, dopo la polemica sugli armeni, potrei espellere 100.000 armeni, e quindi Ankara attacca il Papa, ma il Vaticano dice noi siamo per il dialogo. Grande successo per il 730 compilato, mi viene sempre a dire precomplicato, scusate, un po' di complicazioni ci sono, boom di ricevute e non si conservano dal 2016, spesa per la tessera sanitaria, insomma bisogna capire ancora un po' di cose online. Poi la doppia mossa dell'Unione Europea dell'antitrust contro Google, ora nel mirino per la sua posizione dominante c'è anche Android. E poi c'è la strage al Tribunale di Milano, oggi funerale di Stato, ci sono stati in Duomo, il Vescovo Scola chiede una giusta pena per Giardiello e più responsabilità. parliamo appunto di politica, di legge elettorale. In primissimo piano, da circa un'ora verso le 20 dovrebbe essere cominciata la riunione del PD per discutere della riforma della legge elettorale, riforma che ormai, lo sapete, ha preso da tempo il nome di Italicum, che dovrebbe sostituire il soppresso Porcellum. Italicum che però è diventato davvero il pomo della discordia sia tra governo e opposizioni, ma anche all'interno dello stesso partito di maggioranza, il Partito Democratico. Ora il PD in questa riunione dovrebbe cercare di raggiungere una linea unitaria, anche se pare assai difficile, perché leggevo che il gruppo di area riformista non ha votato, però dice per esempio Mauri, ieri l'aveva detto Matteo Mauri annunciando quale sarebbe stata la loro posizione, Matteo Mauri esponente di area riformista della minoranza PD, aveva detto: o saranno accolte le nostre richieste di modifica all'Italicum o voteremo contro. Sentiamo. Nel momento in cui non ci dovessero essere delle novità e per cui dei cambiamenti, noi al gruppo di domani non voteremo a favore del provvedimento. Poi, alla luce anche di una discussione che ci sarà un secondo momento, decideremo come area cosa fare in aula. Dopodiché è molto chiaro che c'è una grande differenza tra una discussione all'interno di un gruppo, dove ognuno deve dire, ha il dovere di dire in maniera aperta tutto ciò che pensa e di comportarsi di conseguenza, altra questione è il comportamento in un'aula istituzionale. Non so se un colpo al cerchio o un colpo alla botte, oppure sono io che non capisco niente di strategia politica, ma ne parlo con Stefano Cappellini. Buonasera Stefano. Buonasera a voi. Caporedattore centrale del Messaggero. Scusa, hai sentito Mauri dell'area riformista che non ha votato questa sera, che dice, ieri aveva annunciato non voteremo durante la riunione, però vabbè, in aula, poi alla Camera, quando lì passerà l'Italicum, vedremo, perché un conto è la nostra riunione, un conto è un luogo istituzionale come qui. Quindi che significa? Che allora si abbaia ma non si morde? Ma sì, l'interpretazione è abbastanza scontata, è che una volta messa a verbale la contrarietà all'Italicum così com'è, quel pezzo di minoranza del PD, perché poi area riformista non copre tutto lo spettro delle minoranze del Partito Democratico, ha intenzione evidentemente in aula comunque di uniformarsi, quindi di non far mancare il proprio voto. Questo sembrerebbe lo schema di partenza. Adesso la situazione è molto in movimento, perché vedevo poco fa trapelava una disponibilità da parte di Renzi comunque ad apportare ancora alcune modifiche all'Italicum. Probabilmente questa intenzione nasce proprio dalla volontà di riacciuffare il filo del dialogo, soprattutto con questa componente di area riformista. Anche perché, scusami Stefano, Speranza, Roberto Speranza, che è il leader, capogruppo. Il capogruppo di area area riformista, vedevo che potevano esserci delle ipotesi di dimissioni. Lui dice: il mio ruolo è a disposizione, quindi era un po' una minaccia. La grammatica politica vuole che nel momento in cui una componente che fa riferimento al capogruppo comunque formalizza in una riunione di partito, non parliamo di aula qui, ma della conta interna, formalizza una posizione di contrarietà a una riforma che il Presidente del Consiglio considera centrale, questa contrarietà dovrebbe essere accompagnata automaticamente da un passo indietro rispetto al ruolo occupato. Quindi nel momento in cui si formalizzasse questo no appunto in una conta interna, che le dimissioni di Speranza dovrebbero essere un gesto naturale, però appunto la situazione mi sembra ancora un po' in evoluzione, perché non è da escludere che magari Renzi, per cercare di dividere le minoranze e comunque di recuperare un altro pezzo del partito, conceda alcune modifiche che permettano a quest'area di votare la riforma senza troppi mal di pancia. Senti, quindi probabilmente adesso l'esito quale potrebbe essere? Perché io credo che sicuramente una parte della minoranza del PD non voterà nemmeno in aula questa riforma. Sicuramente ci sarà un plotone, un drappello di parlamentari che non faranno avere il loro voto nemmeno al momento del voto in aula. Perché i ribelli totali su 300 sarebbero 100, no? Sì, però siamo appunto proprio alla luce di quello che questa mediazione voi con le parole di Mauri, è difficile immaginare che tutti questi 100 poi alla fine votino contro in aula, anzi è ipotizzabile al contrario che una larga parte di questi 100 al momento del voto in aula poi votino a favore. Non c'è dubbio però, mi pare, per quelle che sono le posizioni di partenza delle altre fazioni della minoranza PD, che invece ci saranno sicuramente dei no a oltranza, dei no che non potranno essere riassorbiti. Credo che Renzi stia lavorando veramente in queste ore, in senso letterale, per cercare di far sì che questi no alla fine restino un numero molto limitato, non tanto per il rischio che la riforma non passi, perché insomma i numeri sembrano comunque esserci, quanto ovviamente per il significato politico che avrebbe un PD spaccato in maniera troppo netta su una riforma che il governo considera centrale e prioritaria. Senti, le opposizioni, sentito, dicono se dovesse essere posta la fiducia alla Camera sarebbe un golpe, quindi hanno deciso SEL, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia di rivolgersi direttamente a Mattarella con un appello, no? Dicendo la nostra iniziativa e quella di altre forze di opposizione non è un modo per tirare la giacchetta al capo dello Stato, ma un appello perché si garantisca un libero dibattito senza forzature. Io sono dell'idea che insomma la parola golpe vada maneggiata sempre con molta cura, purtroppo nel nostro dibattito pubblico non è questione solo di queste settimane, ma sono anni che la parola golpe viene evocata con una facilità che insomma, mi sembra veramente da evitare, da condannare, perché il golpe è una cosa seria e molto diversa. Non c'è dubbio però che insomma la fiducia una legge elettorale sarebbe un passaggio sicuramente molto molto azzardato. Insomma, la legge elettorale è per definizione una di quelle leggi che vanno scritte con il massimo consenso possibile, coinvolgendo le opposizioni, perché è una di quelle leggi che riguardano, come si dice giustamente, le regole del gioco, e le regole del gioco vanno scritte con il più ampio consenso, coinvolgendo tutte quelle forze che ovviamente sono disponibili a essere coinvolte. Ce ne possono essere altre che magari rifiutano a priori ogni dialogo, però non c'è dubbio che porre la fiducia su una questione del genere rappresenterebbe sicuramente un inedito, e io credo che anche dal punto di vista del Quirinale, che insomma sul rispetto delle procedure ha chiaramente un occhio di riguardo, ha delle prerogative, credo che anche rispetto al Quirinale questo potrebbe portare ha dei problemi, non credo che sarebbe vista di buon occhio. Quindi insomma l'appello delle opposizioni da questo punto di vista potrebbe sicuramente avere un qualche ascolto, fare breccia. Senti, sentiamo in chiusura Guerini, vice segretario del PD, che illustra un po' gli aspetti diciamo virtuosi dell'Italia, come poi tu mi dirai nel poco minuto che poi ci resterà, che cos'è che soprattutto all'opposizione, alla minoranza del PD proprio non va giù. Sulla legge elettorale mi pare che la posizione sia molto chiara, insomma per noi questa legge funziona bene, è una legge che consente di garantire la governabilità, consente di sapere subito chi vince e chi perde, ha affrontato alcuni nodi che sono stati presentati, cioè il tema delle soglie d'accesso alla rappresentanza parlamentare, il tema delle soglie d'accesso al premio di maggioranza, abbiamo introdotto il principio del premio alla lista che è una spinta formidabile alla semplificazione del sistema politico italiano, insomma io credo che abbiamo una buona legge funzionante che può produrre buoni risultati per gli italiani quando saranno chiamati al voto nel 2018, insomma immaginare di cambiarla ancora significa riportare la discussione al punto di partenza. Come il Monopoli, diceva ieri, torniamo a vicolo corto, ironizzava ieri Renzi, però ha elencato Guerini il fatto che assicuri la governabilità, l'Italicum, poi che hanno affrontato il tema delle soglie d'accesso, del premio di maggioranza, secondo te due punti che proprio non vanno giù? A chi si oppone, allora, quali sono? Guarda, possiamo volendo semplificarli anche ad uno, perché credo che il problema vero, e che è una questione comunque su cui una riflessione secondo me è legittima, riguarda la questione del metodo di elezione dei parlamentari. Cioè l'Italicum nella nuova versione è un meccanismo che in parte restituisce ai cittadini la possibilità di scegliere, perché c'è la possibilità di indicare delle preferenze, però con il meccanismo del capolista blindato, di fatto questo meccanismo fa sì che i partiti principali abbiano un controllo insomma abbastanza forte dei nomi che poi possono realmente ottenere l'elezione. L'unico partito diciamo nel quale le preferenze avrebbero un impatto maggiore è il partito che ottiene il premio di maggioranza, perché lì scatterebbero talmente tanti di quei seggi che ovviamente sarebbero eletti molto più che i soli capilista, e quindi lì il gioco delle preferenze permetterebbe diciamo finalmente anche di restituire un ruolo diretto agli elettori nella scelta del parlamentare. Però tolto il partito che ottiene il premio di maggioranza, gli altri partiti, di fatto, questo lo dicono i numeri, fondamentalmente eleggerebbero i capilista o poco più, il che significa che per una larga parte del Parlamento continuerebbe a essere ancora in vigore il meccanismo della lista bloccata, i cosiddetti nominati, insomma, che cosa che si è criticata a esattamente i cosiddetti nominati, che era il vulnus principale della legge, peraltro che ne aveva tanti altri. Del Porcello. Stefano Cappellini, io ti ringrazio e staremo a vedere se in questa riunione verranno fuori effettivamente delle modifiche per mediare da parte di Renzi. Grazie Stefano, intanto. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Noi diciamo che anche su questo genere di cose dovreste avere più senso d'appartenenza verso il vostro paese. Concluda. E riconoscere quelli che sono i drammi propri. Grazie, signor Presidente. Grazie, deputata Grimoldi, per l'intervento. Bene. Scusate, allora, ma è spettacolare la Boldrini, oggi che ha dato del femminile al deputato Grimoldi, visto che lui si ostina a chiamarla signor Presidente, quando può dire la Presidente o signora Presidente, visto che è un participio presente tra l'altro. Ma vi aggiorno sulle notizie, per esempio dalla Liguria, per quanto riguarda la candidata PD alla regione, Raffaella Paita, che sapete è stata indagata per mancata allerta quando da assessora alla protezione civile, anche per omicidio e disastri colposi. Lei adesso dice: sono molto sorpresa, ma non mi sono mai sottratta alle mie responsabilità, chiedo quindi alla magistratura di andare avanti senza indugio. Poi abbiamo sentito sull'Italico, ne abbiamo appena parlato, e sull'immigrazione, tema che affronteremo adesso. E ne parliamo col senatore Filippo Bubbico del PD, viceministro dell'Interno. Buonasera Ministro. Buonasera Ministro, grazie della disponibilità. Immigrazione, sappiamo a proposito di questi flussi senza fine, che in pochi giorni sono state salvate 10.000 persone, soltanto nella giornata di ieri sono stati messi in salvo 1.500 migranti, lo dice la Guardia Costiera, proseguono gli arrivi, anche perché si sa che quando il tempo migliora il mare è un po' più calmo e continuano anche le polemiche però sul tema dell'accoglienza. Abbiamo sentito Salvini più volte, che ne ha fatto un cavallo di battaglia della sua campagna elettorale, e il Ministero dell'Interno che ha chiesto nei giorni scorsi di trovare ai comuni, alle regioni 6.500 posti, e la Lombardia e il Veneto hanno subito detto no, noi non abbiamo nessun posto. Alla Camera c'è stata dura opposizione oggi di Lega e Movimento 5 Stelle alla proposta di introdurre una giornata alla memoria delle vittime dell'immigrazione il 3 ottobre, proposta che comunque è passata. Insomma, però la situazione, Ministro Bubbico, è davvero, sembra di continuare a parlare intorno infinitamente a questa questione senza trovare una soluzione. L'ONU ha riconosciuto per il suo portavoce oggi, per voce del suo portavoce, che l'Italia porta un grosso fardello un po' per tutta l'Europa. Ma detto questo? Ma guardi, detto questo, noi non possiamo sottrarci dall'intervenire per evitare che queste persone muoiano in mare. Perché noi dobbiamo agire, non possiamo soltanto constatare o esprimere commossi il nostro cordoglio per migliaia di persone che muoiono. Il mondo è diventato complesso, noi dobbiamo prenderne atto e dobbiamo agire perché le cause che originano questi flussi possano essere rimosse. Queste persone non vanno a passeggio, non vanno in vacanza, queste persone affrontano il mare grosso, affrontano ogni pericolo per mettersi in salvo, perché sono perseguitate, perché vivono in condizioni di disagio estremo, perché temono di essere ridotte in schiavitù, e noi non possiamo girare la testa dall'altra parte. Dobbiamo pretendere che la comunità internazionale si faccia carico, intanto evitando che queste persone muoiano in mare o continuino a morire in mare, e agendo perché in quei luoghi di partenza si possano ricostruire le condizioni di convivenza civile e di un futuro accettabile per quelle persone che scappano appunto dalle persecuzioni e dalle angherie che sono costretti a subire. Certo, Ministro Bubbico, intanto stanno arrivando molti messaggi sia attraverso gli sms anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Alberto dice: il problema va affrontato con la dovuta serietà e non sottovalutato ovviamente, ma dire che sta portando l'Italia un fardello enorme non è vero, perché altri paesi dell'Europa hanno sopportato flussi migratori ben più consistenti. Però è anche vero che la prima accoglienza è tutto compito dell'Italia. Le dico brevemente che cosa hanno detto oggi Chiamparino, che è presidente della conferenza delle regioni oltre che presidente della regione Piemonte, Fassino, che è presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, oltre che sindaco di Torino. Chiamparino dice: ci siamo impegnati a far fronte a una situazione che sta diventando una vera e propria emergenza umanitaria, con l'obiettivo di non lasciare le regioni rivierasche del sud ad affrontare da sole questo fenomeno. Una risposta che è e deve essere corale, che presuppone una reale collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali. E Fassino dice: di fronte a quella che sta per diventare un'emergenza, è importante che vengano garantite ai comuni le risorse necessarie per affrontare in maniera completa il problema, e queste risorse non possono essere certamente reperite nei bilanci dei municipi. E chiede anche che venga operata una redistribuzione equa dei profughi, evitando di caricare soltanto alcuni territori. Beh, mi pare che sia Chiamparino che Fassino abbiano detto delle cose molto, molto fondate e responsabili, di cui tener assolutamente conto. E peraltro la conferenza unificata, che vede la partecipazione dello Stato, dei comuni, delle province e delle regioni, solo l'anno scorso, nel 2014, in estate, ha deliberato un orientamento che punta esattamente a realizzare quegli obiettivi, cioè di distribuire il carico tra le realtà istituzionali del nostro paese, perché non si concentrino tutti da una parte. L'anno scorso noi abbiamo accolto circa 170.000 persone. Quest'anno il trend confermerebbe gli stessi numeri. Ora, 170.000 persone distribuite su 60 milioni di abitanti rappresentano, diciamo, una quota infinitesimale, e ha ragione l'ascoltatore che ha segnalato come la presenza di stranieri, di rifugiati politici, di persone meritevoli della tutela internazionale in altri paesi europei, pensi alla Germania o alla Norvegia, è nettamente superiore a quella che si registra in Italia, sia in valore assoluto che in percentuale. Noi subiamo, come lei giustamente ha detto, il carico dell'approdo, perché soprattutto per le partenze dalla Libia l'Italia è il paese più vicino e puntano sull'Italia. E noi dobbiamo pretendere che in ambito europeo ci sia una maggiore condivisione, ma non solo e non tanto in termini di costi, quanto di politiche che l'Europa deve saper costruire, perché l'accoglienza diventi un tratto caratterizzante della civiltà europea e della nostra capacità di interagire con quei paesi di origine, di partenza, perché si possano ristabilire lì condizioni di sicurezza per quei cittadini. Quello che accade in Libia è devastante, innanzitutto per i libici, per le persone che lì sono presenti, oltre che naturalmente costituire un problema per noi in termini di disagio, ma anche di esposizione ai rischi. Certo, il quadro è complicatissimo, ma come dice lei, c'è l'auspicio, si spera, si continua a dire che l'Europa, insomma, si faccia anche un po' carico insieme a noi e non continui a lasciare l'Italia così sempre in primissimo piano. Ministro Bubico, io intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie, grazie a lei, grazie a tutti, ministro, gli ascoltatori, buonasera. Rieccoci qui con le notizie molto brevemente. L'Italicum: Renzi riunisce il PD sulla legge elettorale, resa dei conti nel partito, ma il Presidente del Consiglio cerca di mediare. L'opposizione avverte: non mettere la fiducia sarebbe un golpe. Migrazione: proseguono gli sbarchi e le polemiche, ne abbiamo appena parlato col Vice Ministro all'interno Bubico. Liguria: per l'alluvione di Genova è indagata la candidata PD alla Regione Raffaella Paita per mancata allerta quando nel suo ruolo di assessore alla protezione civile, indagata anche per omicidio e disastri colposi. E lei dice: non mi sono mai tratta le mie responsabilità. E poi la strage al Tribunale di Milano, oggi funerale di Stato in Duomo, il Vescovo Scola chiede una giusta pena per Giardiello e più responsabilità. Adesso invece ci colleghiamo con il Salone Internazionale del Mobile, qui a Milano, inaugurato ieri, la presenza di Matteo Renzi. C'è il nostro Nicola Scevola. Nicola, quanta bellezza. Ieri diceva che non è Renzi un'esposizione, un'occasione per fighetti, ma qui c'è la migliore eccellenza italiana e c'è anche naturalmente occasione di grande business. Che giri hai fatto tu? Assolutamente, infatti direi che si respira quest'anno un clima di ottimismo fra gli stand del salone. Ci sono tanti visitatori, tutto esaurito fra gli espositori, insomma sembra che l'industria del mobile, che d'altronde è molto legata all'export, risenta meno in parte della crisi interna, soprattutto forse anche grazie all'aiuto di un euro così debole che dà certamente una mano al mercato estero a farlo tirare. Il presidente del Salone Roberto Schneider d'altronde si è detto molto incoraggiato dai segnali positivi che viene in fiera e sicuramente, come dicevi tu ieri, l'ha rinfrancato anche l'intervento del Premier, che durante l'inaugurazione ha ricordato l'importanza che rappresenta per l'economia italiana questo evento. Un evento dove si celebrano certamente i marchi già affermati, ma dove se ne scoprono anche di nuovi. Infatti oggi al Salone Satellite, che è la parte della fiera dedicata ai designer emergenti, ha premiato i progettisti, quelli ancora diciamo poco conosciuti, con un premio che è stato particolarmente a vocazione internazionale. I tre vincitori infatti di quest'anno vengono da Cina, il primo posto, Taiwan il secondo e Australia il terzo. E su questo, Nicola Scevola, ci dobbiamo salutare. Ti ringrazio e buon tour lì al Salone del Mobile. Ciao Nicola, a tra poco. Arrivederci.